Amerò qualcun'altra dopo te, Valentina, Valentina. Mai, mai, mai troverò occhi belli come i tuoi, come gli occhi di Valentina. E se vorrai, vorrai, vorrai, felice sarai, sarai, sarai, solo se saprai volermi bene. E così, così, così, se tu lo vorrai, vorrai, vorrai, io sarò sempre con Valentina. Mai, mai, mai amerò qualcun'altra dopo te, Valentina, lo sai. Valentina, Valentina, mai, mai, mai troverò qualcun'altra dopo te, Valentina, lo sai.